اقولك وين تبدا فعلك. بلاش ما تجرب اشي هبل وتاكل مقلب, بلاش ما تجرب اشي هبل وتاكل مقلب. ايوه Allora bene, 17 e 8 minuti primi, non ce la posso fare. Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e questa è Silenzio Assordante. Appunto, abbiamo iniziato la puntata di oggi con una corrispondenza da Torino che ci raccontava della situazione all'interno del centro per l'espulsione delle persone immigrate senza un regolare permesso di soggiorno. E ne parlavamo anche in un quadro più ampio, quello appunto della macchina dell'espulsione, di questa accelerata che vede insomma una vera e propria messa a sistema dei campi di internamento che dovrebbe riguardare l'Italia, così come nel quadro dei salvataggi in mare si sta dicendo molto, sia insomma tra politici vari, sia nel dibattito pubblico, che sembra aver assorbito lo stesso linguaggio del potere. Abbiamo contattato insomma una compagna con cui spesso discutiamo di questi provvedimenti che vanno sempre di più a inasprirsi. È un contributo tecnico fondamentale per poi ampliare il dibattito, cercando di far crescere anche un'opposizione. Benvenuta ancora una volta a Silenzio Assordante, nonché sempre di più la tua trasmissione. Ciao a tutti e tutti. Beh, c'è un bel ruolo del merda, possiamo dire a questo punto. Sì. Come hai detto? Che c'è un bel ruolo di merda. Ah, sì, vabbè, mi però dispiace. Va bene, va... No, no. Ti è capitato no, questo? No, figurati. Sì, vabbè, no, niente, nel senso, diciamo che io quello che volevo fare era un piccolo punto su quello di cui si sta discutendo tanto in questi giorni, no? Tra i vertici alla Farnesina, a Parigi, insomma in Estonia, insomma di che cosa si sta parlando di base. Diciamo che facendo una piccola cronistoria degli ultimi avvenimenti, quello che è successo è che praticamente mentre il ministro dell'Interno si stava recando a Washington per impegni istituzionali, a fine giugno gli è arrivata insomma questo comunicato del Ministero dell'Interno che di fatto sottolineava un aumento fortissimo, insomma un picco degli sbarchi, insomma degli arrivi nella rotta del Mediterraneo centrale verso le coste del sud Italia. E durante uno scalo in Islanda praticamente il Ministero dell'Interno ha detto che qui la situazione sta andando a picco, devo tornare assolutamente a Roma. È tornato a Roma e si è riunito con Gentiloni, quindi con il capo del governo, e hanno sostanzialmente sottolineato la necessità di coordinarsi con i partner europei su due questioni fondamentali legate all'aumento degli arrivi, che comunque è un aumento sì leggermente più alto dell'anno scorso, ma comunque che come sappiamo benissimo è un grande classico della stagione estiva, no? Quindi del bel tempo e del miglioramento delle condizioni insomma di navigabilità del Mediterraneo. E quindi loro che hanno detto da un lato bisogna introdurre nuovi strumenti di gestione e contrasto degli arrivi e quindi di riduzione degli arrivi sulle coste italiane e quindi europee. In che modo? Ovviamente anche qui un grande classico, insomma non aumenta di niente, intensificando la collaborazione con la Guardia Costiera Libica per quanto riguarda le partenze verso il Mediterraneo e con la Guardia Libica di Frontiera per il contenimento degli arrivi dai paesi di transito, quindi il confine sud della Libia di cui avevamo parlato già qualche tempo fa. e inoltre cercare di fare pressione sui partner europei per una maggiore collaborazione, perché insomma quello che il governo italiano sta cercando di fare e insomma le ultime dichiarazioni di Renzi insomma confermano insomma questa visione, è quello di una di insomma instaurare una specie di baratto con gli stati europei. Cioè il governo italiano dice: ok, voi non state facendo niente in termini di ricollocazione, quindi non avete in alcun modo tentato di adempiere neanche lontanamente agli obiettivi che la Commissione europea si era prefissata in termini di ricollocazione dai paesi insomma di primo arrivo in Europa verso gli altri paesi, e quindi adesso però ci date una mano con gli arrivi. E quindi sostanzialmente quello che il governo italiano insomma ha voluto chiedere ai partner europei è una collaborazione più intensa nelle attività di nelle operazioni SAR, quindi di Safe and Rescue, quindi insomma di salvataggio in mare, e una collaborazione più forte per quanto riguarda la gestione degli sbarchi e l'accoglienza. In che senso? Nel senso di una cosiddetta regionalizzazione degli sbarchi, cioè aprire altri porti di stati tendenzialmente che si affacciano sul Mediterraneo, quindi principalmente la Francia e la Spagna, ma insomma Minniti ha nominato anche l'Olanda e l'Irlanda, insomma, e Malta ovviamente, insomma ha chiesto: aprite i porti, prendetevi parte degli sbarchi e insomma accollati dal vostro sistema di accoglienza. Quindi questo da un lato. Dall'altro invece, per quanto riguarda il sistema italiano di accoglienza e le resistenze crescenti di alcuni insomma, di numerosi sindaci a aumentare il numero delle persone richiedenti asilo e protezione internazionale da accogliere nei vari SPRAR e CAS locali, Minniti ha detto: ok, stiamo raggiungendo la soglia critica, quindi del numero delle persone che dobbiamo collocare nel sistema dell'accoglienza. Quindi che cosa possiamo fare? Possiamo aprire delle mini tendopoli, due per ogni provincia, per evitare l'effetto ghetto etnico, e utilizzare tutti gli edifici pubblici potenzialmente convertibili in centri di accoglienza, quindi primariamente le scuole, le caserme, insomma i grandi edifici pubblici in disuso. Quindi questa era un po', diciamo, la quadra che si erano fatti Minniti e Gentiloni a fine giugno. E poi che è successo? Che il 2 luglio hanno fatto un mini vertice dei ministri degli affari esteri di Italia, Francia e Germania, insieme al commissario europeo per le migrazioni e gli affari interni. E quindi c'è stata questa negoziazione a Parigi, e come si legge appunto sul sito del Ministero dell'Interno, questi tre paesi, dopo questa negoziazione, sono giunti a delle misure concordate, che sono sostanzialmente una riguardante le ONG, che è la grande proposta del governo italiano da portare al nuovo semestre europeo a guida estone, quindi dell'Estonia. E insomma il governo italiano propone l'elaborazione di un codice di condotta per le ONG italiane e non che operano il salvataggio in mare, insomma quindi un codice di condotta che deve essere redatto e presentato dall'Italia per migliorare il coordinamento con le organizzazioni che operano nel mare Mediterraneo. Un piccolo inciso su questo codice di condotta: questo codice di condotta, secondo il governo italiano, dovrebbe essere un documento molto schematico, appunti molto tecnici, che le ONG che intendono operare nel Mediterraneo nelle operazioni di salvataggio in mare devono sottoscrivere, e in caso di rifiuto gli verrà impedito l'accesso ai porti italiani. Ovviamente questo si ricollega a tutta insomma la maxi inchiesta della procura di Catania, insomma, di cui abbiamo parlato, e alcuni punti di questo codice di condotta prevederanno la necessità di consentire la presenza permanente di ufficiali di polizia a bordo, e quindi ovviamente le ONG qui hanno già fatto una levata di scudi, perché ovviamente questo va a incidere sulla neutralità e la terzietà delle ONG rispetto alle istituzioni governative il divieto di attraversamento delle acque territoriali libiche, e quindi sostanzialmente di fronte agli episodi più volte denunciati, insomma, di aggressioni violente, sparatorie della Guardia Costiera Libica contro insomma lo staff dell'ONG, l'Italia ha ben deciso di dire ok, risolviamo questo problema impedendo alle imbarcazioni dell'ONG di entrare nelle acque territoriali libiche. E inoltre l'obbligo di non ostacolare le operazioni di salvataggio in mare operate dalla Guardia Costiera Libica, quindi sostanzialmente una spartizione di competenze fortissima tra la Guardia Costiera Libica e l'ONG, quindi due pezzi di mare completamente separati. Ovviamente se un'ONG decidesse di non sottoscrivere questo codice di condotta, ma comunque di operare nel Mediterraneo, che cosa succederà? Succederà che nel momento in cui dovessero compiere un'operazione di salvataggio in mare, gli verrà impedito di attraccare nel porto. E quindi dove riportano queste persone? A questa domanda non c'è risposta, quindi sostanzialmente si rischia di avere navi in mare con persone caricate a bordo per giorni fino a che le autorità non si decidono dove farli arrivare, probabilmente rimandandoli in Libia, non lo so, questa è la mia supposizione, però insomma si vedrà. Quindi dicevamo appunto, quindi questo codice di condotta, poi il rafforzamento del sostegno alla Guardia Costiera Libica, quindi con ulteriori attività di addestramento, ulteriori risorse, supporto finanziario, monitoraggio delle attività, eccetera eccetera, un maggiore sostegno all'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni e l'UNHCR per garantire che i centri di detenzione in Libia rispondano agli standard internazionali in termini di tutela dei diritti umani, della vita, della dignità, della vita delle persone recluse, promuovere possibili e concrete opzioni per rafforzare i controlli alle frontiere meridionali della Libia, sempre per evitare ancora, cioè per spostare ancora più a sud della frontiera europea, poi di base, rafforzare la strategia europea sui rimpatri potenziando le capacità di Frontex, quindi della Guardia Costiera Europea, e attuare ovviamente lo schema della ricollocazione che era stato concordato a livello europeo. Quindi queste sono le conclusioni a cui sono arrivati al vertice di Parigi. Tutto questo documento che hanno redatto è stato portato il 6 luglio, quindi ieri, al vertice informale della Commissione Europea, quindi il vertice informale a Tallinn in Estonia, che ha inaugurato la presidenza di turno dell'Unione Europea dell'Estonia, che ha seguito a quella di Malta. E praticamente quindi anche qui grandi dichiarazioni di principio, un braccio di ferro tra l'Italia, che è stanca di portare tutto il fardello degli sbarchi, e gli altri paesi europei, che comunque abbiamo visto, no, pongono sempre più resistenza a una gestione congiunta dell'immigrazione. Insomma, di questi giorni la minaccia dell'Austria di portare i carri armati alla frontiera del Brennero, piuttosto che appunto il gruppo di Visegrad, quindi i paesi dell'Europa dell'Est che si oppongono al programma di ricollocazione. Va bene, insomma, quindi hanno fatto questo vertice informale. Informale vuol dire che sostanzialmente le conclusioni a cui giungono non sono vincolanti, quindi sono dei documenti programmatici, e praticamente tutti questi bei personaggi hanno deciso che vanno aumentati gli aiuti all'Italia per la gestione del fenomeno migratorio, quindi con uno stanziamento di 35 milioni di euro. Verrà aumentato l'impegno in Libia e negli altri paesi terzi chiave, quindi generalmente i paesi di transito verso la Libia. Hanno accettato di rivedere e coordinare meglio le operazioni di salvataggio in mare, aumentare i rimpatri, quindi l'efficacia dei rimpatri anche alla frontiera, quindi aumentando e intensificando la cooperazione con Egitto, Niger, Etiopia e Sudan, e di approvare il codice di condotta delle ONG che verrà proposto dal governo italiano, mentre è stato opposto un fermissimo no all'apertura di altri porti che non siano in Italia o in Grecia per gli sbarchi. Quindi Malta, la Francia e soprattutto la Spagna hanno detto no, sicuramente noi non possiamo avere altri sbarchi, la Spagna ha detto noi già ci gestiamo tutto il Mediterraneo occidentale, quindi non possiamo avere altri arrivi, ci dispiace molto, vedetevela voi. In tutto questo, lo stesso giorno, quindi sempre il 6 luglio, c'è stato un incontro alla Farnesina, quindi al Ministero degli Affari Esteri, tra grandi diplomatici dell'Unione Europea, membri delle Nazioni Unite e dell'OIM, quindi dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, più Ministero degli Affari Esteri dei paesi terzi chiave, quindi Libia, Niger, Tunisia, Egitto, Ciad, Etiopia, Sudan, eccetera, eccetera, più i ministri degli Affari Esteri ovviamente di Italia, Germania, Austria, Spagna, Francia, Olanda, Malta ed Estonia. Che cosa si sono detti questi tizi qui? Alla Farnesina si sono detti: ok, la strategia deve essere questa, non basta puntare sulla Libia, la Libia si sta saturando, ovviamente non riusciamo a garantire la tutela dei diritti umani, ma neanche insomma della libertà personale, della vita delle persone che finiscono in Libia e ci rimangono soggette a qualsiasi tipo di violenza e vessazione, quindi dobbiamo diminuire il numero degli arrivi in Libia. In che modo? Fortificando la frontiera a sud della Libia, quindi il ruolo degli stati terzi di transito diventa assolutamente fondamentale, e questa fortificazione della frontiera verrà fatta con l'aumento dei controlli alle frontiere, ovviamente, quindi questo vorrà dire anche un passaggio di soldi, di strumentazione tecnica di controllo alle autorità dei paesi che confinano con il sud della Libia. In cambio, diciamo, la contropartita ovviamente con questo aumento degli aiuti alla cooperazione allo sviluppo, sempre per l'idea che migliorando le condizioni di sviluppo dei paesi di origine diminuiscano i flussi migratori, e in più rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite e dell'OIM per quanto riguarda l'informativa da dare alle persone in transito, cioè sostanzialmente le persone che decidono di migrare verso la Libia e quindi poi verso l'Europa verranno prontamente informate dall'UNHCR e dall'OIM dei rischi di intraprendere il viaggio verso l'Europa. Tutto questo bel sistema dovrebbe servire sostanzialmente a far diminuire il numero di persone che arrivano in Libia e quindi in questo modo magicamente spezzare il business dei trafficanti di uomini, perché ovviamente se una persona, cioè secondo loro, se una persona gli dice guarda che è pericoloso arrivare in Europa, quello dice vabbè, allora non ci vado, e in questo modo non dai soldi ai trafficanti, cioè un po' questo è la scoperta dell'acqua calda che hanno fatto alla Farnesina. Quindi insomma questo è un po' il quadro della situazione attuale. Sì, noi ovviamente ti ringraziamo per la semplicità e la puntualità con cui ci hai descritto questo quadro. Mi permetto insomma di dire che ovviamente questa penetrazione soft che viene fatta con il volto della cooperazione, ma che verrà sicuramente accompagnata da contingenti militari in Africa, peggiorerà di gran lunga, come purtroppo la storia ci insegna, le condizioni delle popolazioni locali. Quindi mi chiedo come questa insomma storia possa essere tra l'altro digerita così facilmente dall'opinione pubblica, che ormai partecipa imbambolata a questo dibattito. E tra l'altro insomma rincaro dicendo che ci credo ben poco che le ONG si trasformino in invece quelle che operano in mare, insomma si trasformino in galeoni pirati che solcano i mari all'insegna della libertà, quando comunque per molte di loro si tratta di vere e proprie multinazionali del business umanitario, che hanno sempre operato al fianco dei governi occidentali che hanno devastato intere popolazioni con le guerre. Quindi sicuramente questo accordo vedrà passivamente l'accettazione delle ONG rispetto anche alla presenza militare sulle proprie imbarcazioni e questa cooperazione con altre forze militari. Ovviamente, che dire, cioè a me sorge ovviamente, ma queste cose in maniera semplicistica le dico anche per come dire sollecitare una discussione, una comprensione un pochino più allargata rispetto alla nostra, di persone un po' addette ai lavori, nonostante insomma non ci lavoriamo, come dire, di tutto questo dibattito con l'Europa. Se davvero la parola d'ordine è l'accoglienza, con cui continuano a banalizzare una vera e propria guerra, basterebbe che l'Italia desse manciate di documenti alle persone che sono richiedenti asilo forzati per vederli poi appunto ricollocarsi nei paesi dove più preferiscono vivere o dove trovano condizioni di vita migliori. Questo ovviamente è una banalità che spesso sfugge anche nelle prospettive dei ragionamenti che si fa anche l'opinione pubblica. Ecco, questo mi dispiace semplificare così brevemente tutto il complesso. Ma nel senso il livello del, cioè non so come dire, noi semplifichiamo, ma il livello della discussione è veramente di un semplicismo quasi sconfortante. Solo una cosa volevo aggiungere, che sarà molto importante nei prossimi mesi andare, cioè, da un lato ovviamente a vedere in che modo poi questi finanziamenti alla cooperazione verranno poi effettivamente impiegati proprio a livello di singoli progetti che verranno implementati nei paesi terzi, da un lato. Dall'altro, a livello dell'Unione Europea, secondo me sarebbe importante, insomma, fare parecchia attenzione alla riforma che verrà fatta del sistema Dublino. Comunque è in corso di discussione non solo la riforma appunto dell'impianto del sistema Dublino per quanto riguarda le competenze dei vari stati membri rispetto all'analisi delle richieste di protezione internazionale, ma ancora più importante secondo me l'utilizzo delle banche dati. Comunque ci sono una serie di proposte di riforma del mandato di Eurodac, di SIS, quindi delle banche dati dei richiedenti asilo e delle persone invece segnalate dalle autorità di frontiera, che sono ad oggi due banche dati completamente separate, appunto, che hanno anche dei dati all'interno che sono nella sostanza diversi, e la proposta è quella appunto di in qualche modo non fondere ma collegare questi sistemi di schedatura delle persone che si muovono in Europa e mettere, insomma, queste banche dati correlate al servizio dell'intelligence e dell'antiterrorismo. Quindi questa sarà tutta una roba che cambierà sostanzialmente, secondo me, anche la possibilità di muoversi anche illegalmente in Europa tra i vari stati. Assolutamente, assolutamente. Noi concordiamo, insomma, con la necessità di monitorare e approfondire rispetto alla cooperazione, ce lo diciamo da un po', bisognerà verificare. Ovviamente abbiamo celebri esempi sparsi per il pianeta di come la cooperazione si è mossa. Tra l'altro ci sono economisti delle stesse popolazioni, insomma, colpite da questa piovra, che ne spiegano perfettamente gli effetti. I danni. Sì, i danni essenzialmente. E dunque magari ne approfitteremo per fare una puntata apposita. Direi che è arrivato anche il momento per, insomma, dare un contributo a questo dibattito un po' neutro rispetto, sì, alla cooperazione. Perché diciamo che questo è il periodo in cui si chiuderanno i bandi per il servizio civile internazionale. Questo è il momento della proposta dei progetti e della selezione dei candidati, quindi bisogna andare a vedere pure come il servizio civile italiano internazionale agirà, si muoverà in questa sciame di finanziamenti, perché secondo me ci sono dei collegamenti, però insomma possiamo approfondire. Ti ringraziamo. Grazie. Se non hai null'altro da aggiungere, ti salutiamo e ovviamente neanche a dirlo, vieni quando vuoi, a presto. Grazie mille. Ciao. Ciao a tutte e tutti, ciao. E allora, bene, questa chiacchierata abbastanza, diciamo, intensa e significativa l'abbiamo conclusa. Noi ci prendiamo una buona pausa musicale, poi torniamo in voce, vi andremo a parlare del processo che ha riguardato oggi la compagna Nadia Lioce, ne parleremo in merito anche alla campagna, quella contro il blocco di libri e riviste in 41 bis, vi parleremo anche di processi in videoconferenza e via dicendo. Dunque restate all'ascolto sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, e adesso un po' di musica.